Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. C'è una foto che racconta meglio di tutte la prima storia di oggi, la storia che sto per raccontarvi. Oggi parliamo di calcio, ma ferme le donne, no, non cambiate, perché non parliamo di calcio nel senso che parliamo di gente che tira calci al pallone. Parliamo come al solito di persone che in questo caso raccontano storie inerenti al mondo del calcio, ma non vi annoiamo con fuorigioco 4-4-2 o 4-5-3-1. Facciamo sempre questa cosa in questo programma, in questi 45 minuti, ogni giorno alle 16 sulla 24. Raccontiamo le storie delle persone, semplicemente attraverso quella storia cerchiamo di guardare un pochettino più a fondo e di capire chi sono le persone che la raccontano e in fondo un pochettino anche chi siamo noi. Questa prima storia, la storia di Marco, è una storia che arriva da Napoli. E quando pensi a Napoli e parli di calcio, pensi sostanzialmente a una persona, anche se non ne sai di calcio. E come vi dicevo, quella persona ovviamente è Diego Armando Maradona, e come vi dicevo all'inizio c'è una foto che descrive perfettamente questa giornata. La foto, delle tante che furono scattate in quel giorno, il giorno in cui Maradona viene acquistato dal Napoli e viene presentato allo Stadio San Paolo, ce n'è una particolare che è abbastanza, diciamo, non è così conosciuta come le altre, perché di solito si vede lui che palleggia, lo stadio pieno dietro di lui. Invece questa foto è scattata alle spalle di Diego Armando Maradona, che è un ragazzino che sta salendo la scalinata. Di fronte a lui c'è un nugolo di fotografi, una nuvola di fotografi, e dietro alle sue spalle il San Paolo pieno. Ecco, questa storia è raccontata da quegli spalti, da quel punto di vista, forse addirittura proprio dal punto di vista di quella fotografia. Marco era un ragazzino, il suo babbo lo prese insieme agli amici, insieme allo zio, e lo portarono a vedere una cosa che a Napoli è ancora considerata come uno spartiacque tra prima e dopo. Avevo 8 anni, l'età di mio figlio il grande, quello malato di calcio e del Napoli. Era un giorno abbastanza caldo. Noi bambini giocavamo a pallone nella pineta e tra un ramo e una pietra le sbucciature di ginocchia erano all'ordine del giorno. Non si andava in colonia oppure in piscina a pagamento. L'unica cosa che si poteva comprare era il gelato dal vecchietto con il tre ruote. Lui veniva nel nostro quartiere 3 volte a settimana. Era l'unico lusso per noi bambini. I nostri tormentoni estivi erano le canzoni di Nino D'Angelo e di Patrizio Carmelo Zappulla. Passavamo l'estate a fantasticare, perché non era come oggi, ci sono tante distrazioni. Le nostre erano pochissime distrazioni, erano poche anche perché non c'erano dei mezzi. Allora a noi rimaneva soltanto fantasticare. E una delle cose dove ci piaceva fantasticare di più era il calcio. D'estate passavamo a fantasticare quale giocatore sarebbe venuto a giocare nel Napoli, per portarlo in alto, allo stesso livello degli odiati juventini milanisti interisti. Da un po' di tempo in giro si parlava di un giocatore argentino, un fenomeno. Uno di quelli che con un tiro ammazzano il difensore avversario, creando una forte depressione nel portiere, che per paura della sua potenza avrebbe lasciato entrare tutte le palle che quella furia umana avrebbe toccato. Un nostro amico juventino più grande di noi ci ricordava che anche Paolo Rossi era stato vicino al Napoli, ma alla fine aveva scelto la squadra più forte. Quel giorno, il 5 luglio del 1984, mio zio, con il suo pulmino giallo, quello per i viaggi abusivi dalla nazionale alla litoranea, decise di prendersi un giorno di festa per portarci tutti ad assistere alla storia. Mio padre, invece, disoccupato, semplicemente continuò a fare festa e ci portarono allo stadio. Noi non eravamo ancora coscienti di quello che stava per succedere. Da lì a poco saremmo stati testimoni dell'unica insorgenza che il Sud Italia avesse mai visto dal tempo degli eroi del Meridione, tipo Carmine Crocco o Ninco Nanco, per intenderci. Da quel giorno non sarebbe stata più la stessa cosa. Certo, quella gente aveva dato la vita, mentre il nostro Napoli si sarebbe solo battuto sui campi di calcio, ma l'eccitazione era palpabile. Sulla tangenziale bloccata dal traffico ascoltavamo una cover di Mario Trevi Maruzzella. Noi, con sciarpe e bandiere dai finestrini, eravamo contenti. Fuori, allo stadio c'era di tutto. si vendevano già sciarpe, cappelli e bandiere del nostro nuovo Beniamino. Mio padre, prevedendo un capriccio collettivo di noi bambini, portò una bandiera con sopra un'immagine di Dirceu, con le mani alzate al cielo, spacciandola per quella del nuovo idolo. Mossa azzeccata, che provocò invidia di molti dei presenti. Il biglietto d'ingresso costò 1000 lire. 1000 lire per assistere a quell'evento. 1000 lire per una cosa che ci avrebbe cambiato la vita. Girava voce che sarebbe sceso in campo con un elicottero. Qualcuno azzardava che si sarebbe lanciato con il paracadute. Ma lui semplicemente salì quella scalinata che dagli spogliatoi del San Paolo porta dritto sul rettangolo di gioco. Gli diedero un microfono per parlare, un pallone per palleggiare. Ci mandò dei baci e noi eravamo contenti, felici, come se qualcuno stesse venendo a liberarci. Noi eravamo coscienti di vivere in una situazione di povertà, però non sapevamo né perché né come ci trovavamo in quella situazione specifica. Il calcio per noi era anche liberazione. Quando a volte vincevamo una partita era come se anche noi acquisivamo qualcosa di importante, un'altra posizione, come se qualcosa stesse per cambiare. Allora con la venuta di Maradona a Napoli abbiamo sentito proprio sulla nostra pelle come se stesse avvenendo un nuovo cambiamento, un nuovo rinascimento per la nostra città. Tornammo a casa fantasticando su tutto. Papà di lì a poco si indebitò per comprare l'abbonamento e non mancare alle prodezze del Pibe d'Oro. Eravamo già innamorati, in delirio oserei dire, ma la mia divenne fede nei riguardi di quell'uomo quando lui annunciò: voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io quando ero a Buenos Aires. Ecco perché il mio destino sarà per sempre legato a quell'uomo e non potrò mai tradirlo, né come calciatore né come uomo. Se ancora oggi io lotto, amando e rispettando, battendomi sempre per la mia città, lo devo anche a Diego Armando Maradona. In un era mai contento, non riuscire più, così bella veramente, ma colpo sembra gente, io sono stato un cretino, stile sempre fatta a fine. Ma resiste, non fa niente, uovo ben andate siete, cagna ancora sto finale, si sta vita da fa. Corre sempre a mezzo campo, corre sempre con un lampo, a tira pallone in faccia a volte, in faccia a short. Io da ragazzino impazzivo per Paperinic. O Paperinic. Ero abbonato a Topolino, ne avevo una collezione infinita. Forse qualcuno se lo ricorderà, l'ho venduta tutta insieme a tutto il resto durante Vendo Tutto. Paperinic non era un personaggio che ricorreva particolarmente di frequente nelle storie, però tutte le volte che appariva una sua storia, io me la bevevo in pochissimi minuti. Paperinic è l'alter ego supereroe di Paperino. È l'identità segreta del più sfigato tra i personaggi Disney. È l'eroe che di notte si infila il mantello e protegge Paperopoli e la libera dai criminali. Ecco, Paperinic è più Batman che Superman, perché lui non ha particolari poteri, se non la scaltrezza e il desiderio di fare del bene. Ma soprattutto Paperinic è l'anima che riscatta Paperino da tutte le brutte figure fatte quotidianamente. Lo riscatta dallo scherno di Gastone, dalle mancanze nei confronti di Paperina o dai casini che fa con zio Paperone. Da ragazzino io non ero proprio un fulmine di guerra. Insomma, cercavo di stare al mondo senza dare troppo nell'occhio per evitare che quelli intorno a me si accorgessero che c'ero e che magari stavo combinando qualche stupidaggine. E leggere Paperinic per me era un po' liberatorio. Mi dava la sensazione che se Paperino poteva trasformarsi in un eroe, forse anch'io avrei potuto risultare, che so, simpatico agli altri o magari essere apprezzato per qualche mia caratteristica che alla luce del sole non era facilmente visibile. So che sembra azzardata come equazione, però Paperinic sta a me come Diego Armando Maradona è stato a Marco e probabilmente a decine, centinaia, migliaia di ragazzini napoletani che tifavano per lui. Di Maradona si sa tutto. Ci sono documentari su di lui, film, spettacoli teatrali che ne raccontano le gesta. Ci sono dei saggi che entrano nel dettaglio di quel gol, il gol che qualcuno definisce il gol più bello della storia. Quello che con 11 tocchi lo porta da prima della sua metà campo fin dentro alla porta degli inglesi. Ho un amico napoletano che ogni volta che guarda su YouTube questo gol si mette a piangere. Ma ogni volta, Gli bastano 20 secondi, 11 tocchi per commuoversi come davanti a un'opera d'arte più grande e più bella di te. Lo stesso uomo che nella stessa partita aveva segnato un gol di mano. La mano di Dio. E quando Marco dice che Maradona stava andando a liberarli, io non so esattamente che cosa intenda, ma credo di riuscire a percepire che sensazione possa provare un bambino che si sente povero, piccolo e senza speranza, che vede arrivare nella propria città un giovane uomo che sembra parlare la sua lingua, che viene dagli stessi luoghi da cui sente di arrivare lui e gli promette di portarlo dove non è mai arrivato. Posso capirlo, perché in fondo è come rimanere ad ascoltare una bella storia. È come leggere o guardare un eroe che lotta per sconfiggere i nemici e liberare la principessa dalla torre. Ecco, forse allora è questo quello che intende Marco. Maradona ha sconfitto le squadre del nord, quelle che vincevano sempre, e lo ha liberato da quella torre in cui era segregato. E il calcio, quando raggiunge questo scopo, non è più uno sport e non è più nemmeno importante che lo sia, perché a questo punto è solo un mezzo. Come potrebbe essere il cinema o la letteratura, ma anche un buon amico, un buon mestiere o una donna che ti ama. Non te muera nunca, Diego Armando, todo el mundo acaba, vos sos el mejor. Non te muera nunca, Diego Armando, non te muera nunca, Diego Armando. Si estás clavado en mi pecho, con Carlitos Evita y Che. Scrive Fabio da Napoli, che dice: anch'io ero al San Paolo quel giorno e non sei l'unico, hanno scritto anche altri, oltre che il papà di Giorgio De Luca, che è il nostro redattore, che dice che c'era anche lui, cioè Giorgio dice che c'era anche il suo babbo quel giorno a Napoli, al San Paolo. Sono da tifoso fiero che Maradona sia venuto a Napoli, però la storia di Napoli è lunga 3.000 anni e su questo, Fabio, non ci piove, noi stiamo solo raccontando un piccolo episodio che fa parte della vita di Maradona, della vita delle persone che erano in quello stadio e soprattutto della vita di Marco. Pronto Marco? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, sto ascoltando. Dove ti trovi adesso Marco? Adesso sono a casa, faccio il camionista, sono quasi sempre in giro, ma oggi mi trovo a casa. Che giri fai? Fai dei giri particolari? Cioè... No, abitualmente gli stessi, diciamo che dalla Campania portiamo i prodotti ortofrutticoli del sud, un po' in Toscana, in Veneto, più o meno sempre le stesse zone. Ma quindi sono viaggi di una giornata oppure stai fuori? Sì, diciamo 24 ore, 36 ore massime, viaggiamo in due perché poi ritorniamo di nuovo carichi. Senti, invece torniamo a quel giorno. Io devo dire che ho davvero adorato il tuo racconto. L'ho adorato perché, vabbè, non sono tifoso napoletano, però insomma, mi piace il calcio e poi Maradona rimane un personaggio fuori nel bene e nel male, fuori dal tempo e fuori dallo sport. Che cosa ti ricordi, oltre a quello che ci hai raccontato? Scusami, il dettaglio della bandiera di Dirceu è straordinario. Cioè, tuo padre non aveva ancora la bandiera di Maradona e ha portato quella di Dirceu, che era, cos'era, brasiliano? Dirceu. Sì, Dirceu era un giocatore brasiliano, l'avevamo preso dal Verona. E diciamo che sulle vecchie bandiere, quelle là stampate di una volta, non erano così chiari, non erano così reali come sono quelli di adesso. Allora era facile spacciare un giocatore per un altro. Dirceu aveva i capelli ricci e diciamo andava bene, insomma. Il disegno fu facilmente scambiabile per quello di Maradona. Senti, quindi voi arrivaste, quanto avete aspettato allo stadio? Ah, sinceramente non aspettammo tantissimo, perché era abbastanza veloce come cosa. Lo ricordo proprio bene, diciamo, in particolare, perché comunque è da premettere che avevo 8 anni. Cioè, sono questo ricordo come un po' i ricordi che ci portiamo da bambini, sai, ti raccontano delle storie e tu rimangono in te perché vengono alimentate anche sempre dal ricordo delle persone che ti sono in certo, posto. Poi i racconti che vengono fatti, no? Magari li cambiano leggermente e rimane il cuore della storia. Però alla fine durò veramente poco. Lui, se non ricordo male, fece 2 palleggi. Sì, venne nel giro agli spogliatoi, perché addirittura mi ricordo che si diceva questa cosa, come raccontavo pure nella storia, che sarebbe sceso con un elicottero, qualcuno azzardava che si sarebbe addirittura paracadutato. Però poi lui alla fine venne dal sottoscala del San Paolo, iniziò a palleggiare e salutarci. E per noi fu il delirio, quello lo ricordo benissimo. Senti, invece vorrei parlare di 2 cose in particolare che tu citi particolarmente nel racconto. Una è quando tu dici: avevamo la sensazione che qualcuno stesse venendo a liberarci. Da che cosa esattamente? Ma sai, da ragazzi non si capisce bene perché ci si trova in certe condizioni. Crescendo magari credi che siano dovute davvero a un fattore di inferiorità antropologica. a voi vi rendi conto che è soltanto un fatto storico, diciamo, noi del sud siamo quasi sempre gli sconfitti e siamo sempre costretti a rincorrere. Diego per noi, oltre al valore sportivo, è stato capace di rivitalizzare l'orgoglio di noi napoletani e oserei dire un po' di tutto il meritone, è stato un simbolo capace di darci una nuova speranza. Quindi quando parli come noi, cioè. Certo, è chiaro, quando parli di riscatto parli di quello, parli semplicemente di portare il nome di una città più in alto rispetto a dove si trova abitualmente nelle menti delle persone che vivono in questo paese. No, più di nome della città, io direi riscatto come una città stessa, per fare parlare anche dei lati positivi, dei luoghi, perché da noi sul sud si parla molto per luoghi comuni e non si va a vedere mai nello specifico perché veramente ci troviamo in queste condizioni. Cioè, come già nel racconto, per noi per esempio i nostri idoli sono i briganti, che magari storicamente per parecchie persone sono dei personaggi negativi, certo. Sì. Senti, invece raccontami tu che cosa hai fatto da quel giorno ad oggi, hai cominciato a lavorare quasi subito? Sì, ho 12 anni ho iniziato a lavorare. E cosa facevi ai 12 anni? Ah, ho iniziato a fare garzone da bar, garzone d'officina, poi ho lavorato in un'impresa di pulizia e poi da là man mano. Ho fatto quello per un periodo l'imprenditore, poi non è andato tanto bene. Che impresa avevi intrapreso? Prima lavoravo con una ditta di spedizioni in Romania, poi avevo aperto un negozio tutto mio là in Romania e da 2 anni sono ritornato poi in Italia. Senti, quindi adesso fai il camionista, giusto? Il trasportatore? Sì, il trasportatore, sì. Quindi devi prendere una patente apposta, immagino, guidi camion grandi? Sì, vabbè, sono delle cose, veramente specifiche e tutte. Comunque, pure questa parte del camionista comunque ti porta a fare delle riflessioni, perché giri per l'Italia e ti rendi conto che magari, essendo dal sud, su di te si dicono tante cose che alla fine non corrispondono mai al vero. Cioè, guarda, i luoghi comuni sono chiaramente su qualsiasi luogo ed è facilissimo farli da tutte le parti. Senti Marco, ti ringrazio molto, devo mandare la borsa, però ti ringrazio per la chiacchierata e soprattutto per la storia. Ok, grazie ancora. Grazie a tutti voi. Ciao, ciao Marco, ciao, grazie mille. Siete qui. E la seconda storia di oggi, in questo giovedì 11 luglio, parla di calcio, ma come al solito parla di calcio da un punto di vista particolare. Ecco, vi chiedo di fare una cosa nell'ascoltare questa puntata, lo chiedo soprattutto agli uomini, di sospendere il giudizio riguardo alla tifoseria, perché qui si parla di una finale di Champions League, che in questo caso è l'ultima che ha vinto l'Inter, ma potrebbe riguardare qualsiasi squadra, potrebbe essere il Milan, la Juve, la Roma, la Lazio, il Bologna. Una partita importantissima della tua squadra di calcio, che tu... probabilmente hai una possibilità nella vita di vedere, soprattutto se accade con la frequenza con cui accade ai tifosi interisti, e invece ti trovi in un luogo che è quantomeno a meno, cioè una nave. Sei in mezzo al mare e sei su quella nave perché stai facendo una cosa che ha un livello di importanza elevatissimo, perché stai accompagnando dei ragazzi ad un evento antimafia. Insomma, la cosa, diciamo, più nobile che possa essere, eppure tu hai un impulso incredibile, che è quello che vorresti vedere la tua squadra di calcio giocare la finale di Champions League, e in qualche modo alla fine ce la fai. Come si guarda una finale dei campionati del mondo di calcio oppure di Champions League? Da soli in casa, per non essere disturbati. Oppure con gli amici, per condividere gioie e delusioni. O ancora in piazza, davanti a uno schermo gigante, a esplodere come allo stadio ad ogni gol della nostra squadra. Sabato 22 maggio 2010 io vorrei essere a Madrid, in curva, per gustarmi l'ultimo atto dell'Inter di Mourinho. Si gioca al Santiago Bernabeu, in palio c'è la Champions League, che manca da 45 anni. E invece mi trovo nel bel mezzo del Mar Tirreno, su una nave crociera insieme a circa 1500 studenti delle scuole superiori, diretti a Palermo. Tutti e 50 i televisori della nave, compresi quelli nella saletta Sky, trasmettono un documentario sulla vita di Giovanni Falcone. La batteria del cellulare è quasi morta, le radioline prendono malissimo. Come ci sono finito in questa situazione? Beh, faccio l'insegnante. Tecnicamente non posso nemmeno definirmi precario, quello per me è già un gradino superiore. Comunque, faccio l'insegnante e sto accompagnando la mia classe in gita premio. Abbiamo partecipato a un concorso all'interno di un ciclo di incontri sul tema legalità e il nostro video ha vinto il primo premio. Un viaggio a Palermo per partecipare alla sfilata in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Era un documentario che raccontava la storia di Giovanni Falcone, quindi tutta la sua vita, la sua lotta contro la mafia, e si concludeva, dopo il terribile attentato di la strage di Capaci, si concludeva con il funerale di Falcone. Tempo fa i ragazzi mi avevano chiesto di accompagnarli e io ovviamente ho accettato. Inoltre avevo saputo del premio solo qualche giorno prima della partita Barcellona-Inter, semifinale di ritorno a Barcellona, e un rifiuto per tenermi libero il giorno della finale avrebbe generato quantità industriali di karma negativo. Ma dopo tutto che problemi c'erano? La nave aveva 50 televisori, una saletta dedicata con antenna satellitare. Cosa mai avrebbe potuto impedirmi di vedere quella partita? Avevo fatto i conti senza l'oste, ovvero quegli splendidi ragazzi e ragazze circa miei coetanei che hanno consacrato la loro esistenza alla lotta contro tutte le mafie, dedicando gran parte del loro tempo a diffondere questo nobile messaggio. Purtroppo, in termini pratici, affidare a loro l'organizzazione del viaggio era un po' come mettere Guidobaldo Maria Riccardelli alla programmazione degli spettacoli di un cinema. Se nel film Fantozzi era costretto a rinunciare ad Italia e Inghilterra per andare a vedere un film cecoslovacco con sottotitoli in tedesco, per noi la condanna era rinunciare alla finale di Champions League per un documentario sulla vita di Giovanni Falcone. E così mi trovo a vagare per la nave alla ricerca disperata di un televisore sintonizzato sulla partita oppure di una radiolina che trasmettesse la cronaca. Ma niente da fare, soltanto e sempre il documentario. Qua e là ci sono sparuti gruppetti di ragazzi che si raccolgono intorno a un compagno munito di radio e tentano di interpretare dalle sue smorfie l'andamento della partita. No, non ce la faccio, così non ce la posso fare, troppa tensione. Soluzione alcolica? Impossibile, sono un docente accompagnatore e poi sulla nave non servono alcolici, quindi. Ma ecco, ad un tratto, un boato esplode proprio sopra la mia testa e un ragazzo di fronte a me inizia a urlare «Milito, ha segnato Milito!». Mi precipito su per le scale, appena in tempo per vedere il replay del gol e gioire doppiamente. Siamo in vantaggio e posso finalmente vedere la partita. La gioia però dura poco, e non perché il Bayern pareggi subito, ma perché un gruppetto di organizzatori, che d'ora in poi chiamerò simpaticamente le squadracce del professor Riccardelli, decide di indagare sulle cause di quel boato improvviso e ci sorprende non a guardare il documentario, bensì una partita di calcio. Le partite di calcio personalmente non dispiacciono. E per di più, come un esimio e pacato collega interista cerca di spiegare a quello che sembra il capo del manipolo: ragazzi, sono 45 anni che aspettiamo sta partita, non ci rompete le palle. Ma niente da fare. Nemmeno la retorica oxfordiana del collega convince gli organizzatori a lasciarci in pace. Telecomando sequestrato, programmazione resettata, TV spenta, tanto per star sicuri. Se la nostra intenzione era guardare la partita, dopo tutto avremmo potuto semplicemente rimanere a casa. Se siamo lì è perché dobbiamo dimostrare certi valori, per cui tutti a guardare il documentario. Ciò che le squadracce non avevano previsto però è che non appena si fossero allontanati, uno dei ragazzi presenti avrebbe deciso di dimostrare ai suoi professori di possedere conoscenze ben più utili di quelle imparate a scuola. Come ad esempio riprogrammare il digitale terrestre e sintonizzare il televisore sul canale della partita, senza utilizzare alcun tipo di telecomando. Detto, fatto. Le immagini dal Santiago Bernabéu ritornano quando da pochi minuti è iniziato il secondo tempo e siamo ancora in vantaggio di 1-0. Ecco però una nuova minaccia a profilarsi all'orizzonte, nei panni di una ragazza che fa parte delle temute squadracce. Fortunatamente sembra appartenere ad un'area più moderata, dichiara la sua fede juventina e viene stretto un patto informale con lei. Lei fa finta di farci la ramanzina e noi restiamo in silenzio, in modo da non attirare l'attenzione. In questo modo continueremo a guardarci la partita. Nei minuti seguenti il silenzio è irreale, interrotto soltanto dall'audio di un televisore che lontanissimo trasmette il documentario. Se facessi attenzione potrei addirittura ascoltare i battiti del mio cuore o di quello dei ragazzi che sono sistemati vicino a me. Mentre noi eravamo in silenzio, religiosissimo silenzio per non irritare troppo quei ragazzi che ci avevano già fatto la ramanzina, riuscivamo a sentire il documentario in lontananza, per cui un senso di colpa saliva, anche perché pensavo tra me, ma che figura ci faccio come insegnante, che esempio do ai miei ragazzi? Il tempo trascorre e la tensione aumenta. Non si può nemmeno scaricare urlando qualche insulto, che so io, a Kivu o a Pandev. Allerteremo le squadracce del professor Riccardelli, addio partita. Niente, bisogna soffrire in silenzio. Sul nostro schermo a un certo punto esce Kivu, un sospiro di sollievo da parte di tutti, ed entra Stankovic. I rimorsi mi assalgono. Non dovrei essere lì a seguire una partita di calcio. Dovrei partecipare al ricordo collettivo di queste persone che hanno sacrificato tutto per noi. Sono un pessimo esempio per tutti i miei studenti. Dopotutto è solo una partita. Il dramma interiore si acuisce quando dall'altra parte della sala giunge la cronaca audio del funerale del magistrato siciliano. È un sussurro, è appena percettibile, ma nel nostro silenzio è come se la vedova Schifani parlasse in un megafono. Solo che a questo punto non stiamo più ascoltando. E tu ha preso la palla, lancia Milito che si invola sulla fascia sinistra, tra lui e la porta c'è solo Van Buiten, Milito rientra, finta il tiro, manda il difensore del Bayern a comprargli cornetto cappuccino e insacca il 2-0. Il boato è così assordante che probabilmente si sente dall'altra parte della nave. Sicuramente se ne sono accorte le squadracce che, come la polizia nel secondo tragico Fantozzi, si incazzano sul serio. È un fuggi-fuggi generale, ma ormai il morale è alto e non ci riprendono più. Dopo circa 20 minuti, attraverso una radiolina che prende malissimo, arriva anche la conferma. Siamo campioni d'Europa. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. È in un posto che credo non sia in Italia, deve essere probabilmente in Texas. No, non in Texas. È negli Stati Uniti, a Las Vegas forse. A Las Vegas, è a Las Vegas. Marco, nella foto che ci ha mandato, è in piedi ed è alle spalle di due tizi seduti che sono, non saprei dire, sembrano delle cariatidi appartenute a un vecchio film western americano, di quelli che vanno ancora in giro dicendo "Hey, good old times", con un cappello texano in testa, ma ah, no, l'abbiamo capito. Alle sue spalle c'è una scritta che dice this is poker, credo. Quindi rimaniamo sempre lì. Marco, non ne fai una giusta, sei insegnante, vuoi vedere la partita e ti piacciono dei giocatori di poker. Inopportuno, aggettivo. Contrario, più o meno risolutamente, alla convenienza del momento. Etimo dal latino inopportunus, derivato di opportunus, opportuno. Data secolo XIV. Si apre sempre un mondo quando Alessandra De Luca ci racconta la definizione della parola chiave di oggi, o per chi avesse un profilo Twitter, dell'hashtag di oggi. La definizione la trovate anche sul profilo Facebook del programma. Se dico ancora la parola profilo, nei prossimi 30 secondi ho fatto il record del mondo. Guarda come sta bene di profilo Margherita quando è girata. Marghe, grazie per essere tornata. Abbiamo rischiato di spararci un colpo io e Bonini. Inopportuno, aggettivo, ci sono già dei... Mi piace la gente che mette del like alla definizione di inopportuno. Non è opportuno per me, fervente cattolico, scrive Alessandro, immagino, essere iscritto ad un sito per incontri hard e incontrare donne per sesso e basta, ma non riesco a farne a meno. 800240024. È inopportuno usare a mo' di monopattino il carrello del supermercato, ma è troppo bello, più forte di me. Io sputo per terra quando fumo il sigaro e mi metto le dita nel naso quando sono bloccato nel traffico. Guarda, lì mettiti in coda, perché se ti guardi in giro quando la gente è al semaforo, se non ti stai mettendo le dita nel naso. Anonimo che ha timore di essere riconosciuto. 800240024. Sorridere ai funerali, insomma, siamo più o meno tutti lì. Puzzette. Il clima è quello lì, ragazzi. Ma io invece vorrei tornare indietro nel tempo, vorrei tornare a quando Roberto da ragazzo faceva il chierichetto. Pronto Roberto? Pronto Matteo, ciao, come ciao, stai? Io sto bene, tu come stai? Bene anch'io. Grazie per essere qui innanzitutto Roberto, e torniamo a quanti anni fa, quando è che facevi il chierichetto? Oh beh, si parla di 35 anni fa. E parliamo di un paese o di una parrocchia, di una città? Un paesino di 10.000 abitanti, parrocchia. E qual era la cosa che, la preferisco che la dica tu, la cosa inopportuna che facevate ma che evidentemente era più forte di te? Beh guarda, avevamo fissato la domenica pomeriggio come il giorno della merenda, durante il vespro ci si organizzava e diciamo di nascosto ci mangiavamo le ostie e assaggiavamo questo vino del prete che ci chiedevamo sempre che gusto avesse. Ma infatti, scusa, questa credo che sia una domanda che si fanno tutti: ma che vino è quello che bevono i preti sul palco? Sei sul palco, buonanotte, sull'altare. Ma secondo me è un vino bianco che può essere paragonabile a un Tokaj, quindi un vino bianco secco. Bianco? Ma scusa, ma non è rosso il vino del prete? No. Il nostro beveva rigorosamente vino bianco. Ma scusami, in che zona d'Italia? Piemonte. Ah, ma... Forse mi ricordo, o forse sono sempre solo stato affascinato dal fatto che essendo il sangue di Cristo fosse rosso. Però no. Il mio beveva vino rosso. Paolino Corleone dice che anche il suo beveva bianco. C'è qualcuno che sa che vino bevono i preti? 349-238-6666. Quindi in pratica facevate la zuppetta col pane? No, perché noi quando diciamo facendo la comunione, diciamo che mangiando un'ostia non ci dava questa grossa soddisfazione e ci chiedevamo che gusto potesse averne, ma mangiarne 5 o 10 per volta. Allora ci facevamo questi pacchetti da 5, ci ributtavamo giù e sosteggiavamo questo vino bianco. Beh, tipo le macine nel latte, che sai che se pucci due macine nel latte si inzuppano meglio. Senti, e mentre uno mangiava gli altri tre stavano nelle entrate della sacrestia da fare da palo che non arrivasse il sacrestano al parroco. A quante le persone l'hai detta questa cosa? Penso che tu sia la prima. Benissimo, io e i 2 milioni di ascoltatori quotidiani di Radio 24. Mannaggia. Roberto, grazie mille, grazie. Prego, mille, buona giornata. Ciao, grazie. 800240024. Mettere le chewing gum, e se è al femminile deve essere piemontese, perché è in Piemonte che le chiamano al femminile. Mettere le chewing gum sotto il banco, e uno dice vabbè, a scuola. No, sotto il banco durante le conferenze. Lo so, è inopportuno, ma è più forte di me, Marco. E finalmente è arrivato anche il messaggio. Insomma, mi sembrava strano che non arrivassero. Bel esempio che dà questo prof. Complimenti. Viva l'Italia. Ma il clou è: e poi ci lamentiamo che le cose vanno male. Uno che vuole vedere una partita invece che un documentario. 800240024. Andiamo a Novara da Giorgio. Pronto Giorgio? Ciao Matteo. Ciao, ma ci conosciamo? Ciao. Ci conosci? No, magari abitiamo vicini. Vabbè. Sono due tre case. Io sono di Romentino. Ah, di Romentino, io di Bellinzago. Vabbè, sì. Mio cognato è di Bellinzago. Ma dopo esserci fatti nostri, Giorgio, scusami, la cosa okay. Che è inopportuna, no. Ma è più forte di te. Sì, quando magari incontro una ragazza che non conosco, una donna, così, che ha dei begli occhi, non riesco a trattenermi, gli dico che ha degli occhi bellissimi, anche se magari c'è mia moglie con me. Ma scusami Giorgio, cioè nell'ordine di quante volte lo fai nell'arco di una settimana, ad esempio? Ah, oggi l'ho fatto al bar, c'era una ragazza che serviva, l'ho guardato e gli ho detto: hai veramente due degli occhi, wow. Detto così. Senti Giorgio, quanti anni hai? Quanti anni hai tu? Sono 48. Vuol dire sono vecchio per chi è fuori dal Piemonte, dal nord in generale. Vabbè, insomma, ma non è tanto l'età. Però diciamo l'intenzione, Giorgio, visto che ci stiamo mettendo tutti quanti una mano sulla coscienza. No, no, che sia sincero lo immagino. Però diciamo non c'è alcuna velleità di, come dire, agganciamento, no? Proprio perché mi piacciono gli occhi delle donne. Benissimo. Non ha degli occhi bellissimi. Benissimo. Guarda, io lo dicevo che c'è una forma di poesia e di romanticismo dalle mie parti nel novarese che coinvolge anche Giorgio. Giorgio, cosa fai nella vita? Faccio venditore. Sei un commerciale. Sei un commerciale. Ma lavori per, sei agente di commercio generico o vendi un prodotto solo? No, lavoro per un'azienda, vado nell'industria. Ok, e come va? Un po' male, sì. Un po' male in generale, però. Sì, in generale, io ti parlo andando in giro. La sensazione è quella. C'è tanta disperazione, purtroppo. Giorgio, ti ringrazio. Comunque, niente, dai. Comunque, mi è piaciuto. Andiamo. Dai, stiamo su, Giorgio. Io sto su, stai su anche tu. Ti ringrazio, buona giornata. Ciao Giorgio, ciao, ci vediamo magari dalle parti, a metà strada, a Cameri tipo, dove c'è l'aeroporto militare. Oh, mi scrivono che vino è il vino del prete. È un vino particolare che deve avere una particolare autorizzazione vescovale. È tipo un vino santo. Il vino bianco è ricordamente prodotto secondo discipline della Chiesa. Luca da Ferrara, vino bianco, è solo vino bianco. Solo io che credevo che essendo il sangue di Cristo. Anche tu Tiziano, ma scusami, il sangue. Grazie a chiunque ha reso possibile anche questa puntata, grazie per tutti quelli che si sono resi inopportuni e ce l'hanno raccontato, grazie soprattutto a Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni, grazie a Marco, la star di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa.